vi parlo del dossier Morire di carcere che stiamo portando avanti come centro di documentazione e come appunto redazione del giornale da più di un anno teniamo aggiornato mese per mese. Durante il 2004 abbiamo raccolto 80 storie, perché questa è la particolarità del dossier. A differenza di quanto viene fatto dalle fonti istituzionali, noi non ci limitiamo a dare statistiche, a dare numeri, ma a raccontare storie. Quindi raccontiamo le vicende personali, per quanto possibile, delle persone che muoiono in carcere. All'inizio dell'anno ne abbiamo raccolte 80, di cui 45 riguardano detenuti che si sono suicidati. Soltanto nel mese di ottobre ci sono stati 5 suicidi e 2 detenuti sono morti per cause naturali cosiddette, quindi per malattia. Ha un senso importante fare questo, perché in mass media, in particolare quelli grandi, difficilmente si occupano e difficilmente danno risalto a questi avvenimenti. La raccolta delle informazioni è difficoltosa, è molto difficoltosa. A volte si trova un accenno in qualche articolo e poi bisogna cercare ulteriori notizie da altre parti, su internet. A volte si trova la notizia semplicemente attraverso la dichiarazione di un operatore sociale o di un politico, di un amministratore che ha visitato il carcere, e tra le varie cose viene fuori a dire: ecco, il mese scorso in questo carcere è morto un detenuto. Ecco, a volte le fonti sono di questa consistenza, veramente minima. Questo cambia, cioè le notizie vengono date con maggior rilievo quando la persona che muore è una persona importante. Ecco, si è verificato lo scorso agosto col sindaco Camillo Valentini, ad esempio, a Sulmona. Questo mese si è verificato ad esempio con Francesco Mercuriali, primario all'ospedale Niguarda di Milano, e messo agli arresti domiciliari per una storia di tangenti, si è ucciso con una coltellata al cuore. Ecco, in questo caso è data appunto il rilievo della persona, i giornali hanno dato risalto alla cosa. Mentre ad esempio la notizia di una detenuta italiana di 30 anni, della quale nemmeno il nome sono riuscito a trovare, è morta a Pisa, l'ho ricavata da un'altra notizia che parlava di un suicidio accaduto sempre a Pisa alcuni giorni dopo, nel quale appunto si diceva: questo non è il primo caso, perché alcuni giorni fa c'è stato questo decesso. Quindi davvero da appigli minimi a volte riusciamo a ricostruire il nostro dossier, e comunque il nostro ruolo è anche questo, è portare fuori dal carcere le notizie che di solito non escono, e soprattutto restituire una dimensione umana ai numeri spesso freddi e purtroppo cinici che vengono dati sui cosiddetti episodi critici, ecco, perché il Ministero classifica come episodi critici gli autolesionismi, i suicidi e le morti per altra natura.